la tua meta, quale il disegno? Non lasciare il tempo uccidere il tuo tempo. Non lasciare prenderti dall'odio né dallo sgomento. Vedi intorno a te e vedrai che il vento soffia sulle spighe di grano, soffia sul frumento. E tu sei molto di più, tu sei la carne di un sogno. Quando il tuo sguardo abbraccia il firmamento, lasciami una traccia del tuo cuore. Lasciami una traccia del tuo amore. Anche quando la terra brucia le ali del vento, anche quando tutto sembra nero e tutto sta crollando, lasciami una traccia del tuo mondo. Prendilo di petto, dacci, dacci dentro. Anche quando la pioggia schiola gli argini del fiume, anche quando tutto sembra dirti che oramai siamo alla fine. Nel silenzio del tuo cuore nascono pensieri, quelli che ti porti dentro, che illuminano i tuoi colori. Ogni tuo respiro fa parte di questo mondo, ogni tua carezza un infinito sogno. Quanto mi fai ridere quando mi dici non serve a niente, è inutile in questo mondo, regna il prepotente. E proprio in quel momento io mi rendo conto quanto sia importante il tuo essermi accanto. Lasciami una traccia del tuo cuore. Lasciami una traccia del tuo amore. Anche quando la terra brucia le ali del vento, anche quando tutto sembra nero e tutto sta crollando, lasciami una traccia del tuo mondo. Prendilo di petto, dacci, dacci dentro. Anche quando la pioggia schioda gli argini del fiume, anche quando tutto sembra dirti che oramai siamo alla fine. E tu sei molto di più, tu sei la carne di un sogno. Quando il tuo sguardo abbraccia, abbraccia il firmamento. Lasciami una traccia del tuo cuore. Lasciami una traccia del tuo amore. Anche quando la terra brucia le ali del vento, anche quando tutto sembra nero e tutto sta crollando, lasciami una traccia del tuo mondo. Prendilo di petto, dacci, dacci dentro. Anche quando la pioggia schioda gli argini del fiume, anche quando tutto sembra dirti che oramai siamo a